Perfetto! Ora quante volte dovrete passare sotto al tronco? Quando siete pronti, posizionate il tag voce sullo schermo per dare la vostra risposta.